Amai! Zitto sì! Amici, domani! Promitta so! Sto provando volante, no, Giovanni, mi senti? A cosa scala? No, dammelo, sta qua, se cade in terra non si piega. Vabbè! Ho detto che questa qua, se cade in terra, non si piega. Non ho afferrato, Ho detto, se cade in terra la radio, l'antenna non si piega come l'altra. Ma così è. Vabbè, fanno bene, là. Da, va bene lui. Siamo arrivati adesso a fare la spesa. Oh, molti soldi hai speso? 635 milioni di euro. Siamo andati in Banzigobu. Da, va bene, da, va bene. Davvero. Ma non c'è nessun altro? Boh, sono appena arrivato, Gio Mario, non credo. Io acceso adesso, in questo momento proprio. Quando tu stavi parlando, sto acceso io, in questo momento. Oh, c'è nessuno? Tutti morti sono, tutti morti. No, Giovanni, tutti dormiti sono. Bisogna andare a Viale San Paolo se ce n'è qualcuno vivo, lui. Mi sa di sì, Dovrei andare in Chini. Se c'è qualcuno vivo, ben venga. Capito mi hai? Ehi. Parti, mangio e fedi Rufug, si vede chi deve andare qui oggi. Ah, Rufug, fedi, Rufug si magna. Ah, vero, oggi c'ha piedini d'anguille. Ah, piedini d'anguille, Maris. A lui gli piacciono molto questi piedini d'anguille, capito? Dice che sono saporiti e lui si mangia quelli stanotte. Oppure è così di farfalla, buon avviso a Russo. Tutto è buono, tutto è buono. L'importante è che ci sia l'appetito. Infatti, adesso te magna. Anzi, mi curità, là. No. Subito non canta messa. Ehi. Da, va bene, da, va bene. Non più sentito a cosa? A Marino. Marino ne Bacchisio, chissà se è un trattore pure in casina. Non da regana, no, ma con chi si da regana tu? Aspetta per cambiare il tempo, è più freddo, come si dice, stanno a casa, a calduccio, ma la sera si entra di più, d'estate, adesso siamo ancora a caldo, mi. C'è ancora, vabbè, in quest'ora no, un po' di freschetto c'è. Ma io giocavo con la manichigotta e pantaloncini, da stasera. Ehi, c'è freschetto, no. Mi sono già messo, io sono col pantalone della tuta e un pigiama a maniche corte. No, io sono stamattina, pantalone di Gio Mari, sono quasi arrivati i gatti. Ehi, sono portati i piatti, sono tutti. Ehi, stamattina stavamo lavorando. Stamattina fino alla una stavamo lavorando tutta la mattina. A un Pazzigobu? In campagna. Ma con Luca? Cosa stavate facendo? Un po' di tutto, là. Un po' di tutto, ce n'è da fare, ce n'è. A essere bello, comincia il lavoro. Certo, adesso sì. No, io domani sono attivissimi. L'ho chiamato. E domani sono a Tiesi. Bisogna andare lui. Infatti abbassa la portante bene. Non ho capito. Che non sei uscito, abbassa la portante bene, ho detto. Che niente, dovevo starti un sincero, la plastica la diciamo. Ho detto, bisogna andare. Ma forse bisogna andare, ma la gana burro. Se no, uia. Se ti la baffa e andare, perché già, bisogna muoversi, bisogna camminare, bisogna andare, bisogna lavorare, a produrre, se no non si magna. E allora, bisogna produrre, sì. Vabbè, dai, già ci arrangiamo poco a poco, non c'è problema. Lui non ha suonato, io vengo subito.